Grazie della linea, amici di Fujiko Factory, qui è Mauro, e perché Erika l'ho spedita in missione per fare un'intervista. Non abbiamo intervistato un musicista questa volta e voi direte: ma come mai? Molto semplice, abbiamo intervistato il direttore artistico di un festival che si tiene questo weekend a Parma. Ebbene sì, i festival ci sono anche in autunno e nonostante il tempo molto uggioso. Abbiamo intervistato Giovanni Sparano, che è il direttore artistico di Barezzi Festival, un festival giunto alla sua 13ª edizione che quest'anno si tiene dal 15 al 17 novembre al Teatro Regio e all'Auditorium Paganini di Parma. La musica del Barezzi Festival è molto interessante. Adesso vi dico alcuni nomi così per darvi un po' un'idea, anche perché ci sono generi che spaziano proprio dal post-punk alla musica elettronica, al folk rock. Allora, ecco, per farvi venire un po' di acquolina in bocca per questo festival, vi dico che suoneranno Scott Matthews, Con l'arco è un quartetto di musica da camera, poi c'è la Nouvelle Vague, insomma, che è molto conosciuto come band, Filbo, Riva, Francesco Di Bella, altro cantautore molto noto nel panorama rock italiano, Renzo Rubino, Vasco Brondi, Cristiano Godano, Dente, insomma tutta la musica d'autore italiana un po' anche dell'ultimo decennio, JP Bimeni, Stella del Soul, gli Apparat, che direi conoscete tutti quanti, della musica elettronica, e a fare un po' da headliner, se possiamo così dire, il post-punk britannico di Echo and Bunnymen. Ora, prima di lasciarvi all'intervista che Erika ha fatto a Giovanni Sparano, che è il direttore artistico del festival Barezzi, io vi lascerei proprio con una canzone di Echo and Bunnymen. On the water, lips like sugar, lips like sugar. Just when you think you've caught her, she glides across the water. She calls for you tonight to share this moonlight. You flow down the river, she laughs and lips like sugar, sugar kisses. Lips like sugar, sugar kisses. She knows, I know what she's thinking. Sugar kissing, sugar kissing. Just when you think she's yours, she's flown to other shores to laugh at how you break now to this lake. You flow down the river, but you never give up. We'll be right back. my mirror, reflect what I am. Losers and winners, the kingdom side, and my Siamese twin, alone in the river. Mirror kissing, mirror kissing. Abbiamo con noi per parlare di questo evento, appunto Barezzi Festival, che vi ricordiamo si terrà questo weekend, proprio il direttore artistico Giovanni Sparano, giusto? Sì, Sparano. Oh, Giovanni Sparano, ecco, iniziamo. Ciao Giovanni, grazie per essere qui con noi. Ciao. Ti ringrazio, intanto io ti volevo fare qualche domanda su questo evento. Iniziando, diciamo, non proprio sull'edizione 13, che è quella che si terrà appunto quest'anno, ma un po' sulla storia di Barezzi Festival. Infatti Barezzi è 13 anni che si tiene, ma è legato a un personaggio molto particolare, no? Non proprio legato alla musica contemporanea in un qualche modo. Ti volevo chiedere se ci raccontavi un po' la storia. Sì, noi, io all'inizio degli anni 2000, 2001, 2002 ho fatto al Teatro Regio e anche in altri teatri la comparsa nelle opere liriche, quindi sono entrato in questo mondo. A Parma mi sono occupato molto della vita di Verdi, perché per forza sì, a un certo punto senti quelle opere, quel tipo di musica, ti appassioni oppure te ne vai. Io mi sono appassionato tantissimo e naturalmente nella vita di Verdi c'è che è forse più importante della sua musica, perché ha fatto una vita incredibile. È nato all'inizio del Novecento, dell'Ottocento, e è morto agli inizi del Novecento. È stato veramente lo scrittore della sua vita, no? È stato il primo che ha portato per esempio il trattore, no? In pianura padana, il primo italiano. È stato senatore della Repubblica, è nato quando c'erano i francesi, è morto quando c'era l'Italia Unita. Quindi è stato veramente, anche dal punto di vista artistico, tra quelli che hanno legato il Risorgimento italiano con la pensiero. E leggendo la sua biografia mi sono incuriosito da Bur Meridionale, perché io non sono di Parma, sono di Eboli, provincia di Salerno. Mi sono incuriosito la storia di Antonio Barezzi, che è stato il suo mecenate, e ho pensato che bello che all'inizio all'Ottocento c'erano delle persone che si occupavano di altri, perché Barezzi ha adottato in modo capillare Giuseppe Verdi, l'ha fatto entrare a casa sua, ha fatto sposare la sua figlia, gli ha pagato gli studi per andare a Milano, che all'epoca era un altro stato, perché c'erano gli Asburgo e a Parma c'erano i francesi. Quindi si è dato in modo disinteressato, perché comunque lui non era neanche un musicista, ma era un droghiere. Quindi mi ha incuriosito, e quindi senza Barezzi, diciamo, non avremmo Giuseppe Verdi. Io facendo la comparsa ho sempre detto: ma come mai io per caso ci sono entrato qui dentro, perché non si possono fare anche altri concerti, no? E da lì ho iniziato questo percorso dal 2006 in un bar, 2006-2007, e abbiamo iniziato a organizzare dei concerti tipo concorso, cioè invitavamo band di varie situazioni musicali che portavano a questo concorso degli inediti e una rivisitazione di un brano di Giuseppe Verdi. E poi il vincitore cioè vinceva chi dava la rielaborazione più interessante, c'era una giuria eccetera. E nel giorno, diciamo, mi ricordo, nel giorno della finale pensai di accostare a questo concorso un festival, cioè festival dove potevano partecipare grandi artisti che si erano confrontati negli anni con musica colta o contemporanea. Il primo, il mio primo pensiero andò a Battiato, e mi ricordo che la sera della finale del concorso scrivemmo una mail lunghissima a cui Battiato rispose dopo due giorni, quindi ci invitò a Milo e partecipò alla seconda edizione del Barenzi, che poi era la prima del festival, gratuitamente, e da lì poi è nato tutto, quindi diciamo anche grazie a Battiato. Ha sposato la causa, insomma. Ha sposato la causa, è venuto, e quindi poi da un bar è passato ai vari teatri, prima di provincia, poi al Teatro Reggio, da cui, in cui facciamo concerti dal 2010. Perfetto, ora prima di ascoltare un pezzo ti faccio un'altra domanda che mi sembra legata proprio a quello che mi hai appena raccontato. Creare un festival che appunto si occupa di musica non propriamente classica, no? Musica più contemporanea, con artisti contemporanei, come appunto è il Barezzi Festival, e vorrei sapere quali sono le necessità e i punti sia di forza che di debolezza che incontri tu come direttore artistico nel dover organizzare un evento del genere e sposare due mondi che sembrano apparentemente un po' distanti. Sì, io devo dire che era più complicato, era molto complicato prima, quando il Barezzi era poco conosciuto, quindi bisognava veramente trasmettere questa passione che era viscerale da parte nostra ad artisti importanti come Benjamin Clement, Michael Kiwanuka, Philip Glass, che sono oltre Battiato, eccetera. Adesso il Barezzi è più conosciuto, quindi anche da parte degli artisti, tipo Apparat per esempio quest'anno ha scelto il Barezzi come l'unica data invernale autunnale, no? E sicuramente c'è un problema da un punto di vista tecnico, però con la voglia anche degli artisti di venire al Barezzi riusciamo a creare una sintesi per aggiustare un po' le schede tecniche, per venirci incontro da un punto di vista della produzione, e quindi riusciamo comunque sempre a creare un festival unico nel suo genere. Perfetto, allora ascoltiamo un pezzo e poi torno da te con alcune domande. Adesso ci concentriamo un po' di più sull'edizione 13, che è quella che si terrà quest'anno, perché ora abbiamo parlato del Varese in generale, diciamo, no? Un po' della sua storia. Quest'anno invece, ricordiamo, si terrà dal 15 al 17 novembre e c'è un tema, questo tema è prospettive. Io sono molto curiosa, me lo spieghi? Sì, prospettive legate a questo nuovo sposalizio che c'è stato quest'anno tra Varese Festival e Teatro Reggio. Cioè, da quest'anno il Teatro Reggio acquisisce l'organizzazione, siamo stati un po' adottati, inglobati all'interno di questa grande fondazione. Un po' come Verdi e Barezzi, insomma, siete stati, esatto, adottati. Perché il festival, soprattutto l'anno scorso, è esploso, cioè io ero a capo di questa piccola associazione culturale, da un punto di vista proprio amministrativo non riuscivo più a reggere, quindi erano due le strade, o creare una società, quindi, oppure una fondazione, oppure, cioè, mi è venuta l'idea di prospettare questo progetto al Teatro Reggio, che comunque è una fondazione, la fondazione più importante della città dal punto di vista musicale, e che porta avanti nel nome di Verdi la sua filosofia, quindi da un punto di vista artistico era sensata quest'unione. Abbiamo lavorato per 3 mesi affinché diciamo tutti i dettagli venissero completati. Quindi prospettive perché comunque anche da parte del Teatro Reggio, del direttore generale Anna Maria Ameo, c'è stato un grande coraggio, no? Ad aprirsi a poche fondazioni liriche in Italia riescono a dare fiducia e coraggio a un festival di musica contemporanea. Quindi insieme pensiamo da una parte di dare, cioè il termine prospettive ti dà sia l'idea di futuro che si vuole avere insieme, anche un modo diverso di pensare il teatro, no? Da un altro punto di vista che non è solo la lirica. Nel tempio della lirica, perché lì suonano i più grandi soprani e tenori del mondo, c'è un festival Verdi che è tra i festival italiani più importanti, e quindi a me è venuta in mente proprio questo termine, perché diciamo anche da parte loro e da parte nostra cambiano le prospettive, sia per vedere in modo diverso l'arte e la cultura, e anche per il futuro, che spero sia florido. E sì, assieme sempre. Perfetto. Allora ti faccio l'ultima domanda, perché non abbiamo ancora parlato di chi suonerà al Varese Festival, quindi è importante secondo me dire qualche nome e anche spiegarci secondo me gli artisti che suoneranno sul palco, ma anche quelli che avranno modo di raccontarsi, giusto? Com'è suddiviso il programma? È suddiviso da un paio d'anni, ecco, prima di iniziare questo sposalizio abbiamo comunque fatto delle prove generali insieme, cioè l'edizione 2017-2018 sono state all'insegna di un'idea legata al Teatro Reggio come casa Barezzi, no? E quindi diciamo, i clienti che vengono e comprano un biglietto hanno l'opportunità di vedere questo teatro spacchettato, un po' come avveniva nell'Ottocento. Noi ritorniamo con le finalità di oggi, del 2019, a concepire il teatro, per cui è stato pensato un luogo dove si parlava di politica, si mangiava, si beveva, si ascoltavano anche concerti oltre alla Sala Grande, e così sarà un po' il Varese in continuazione con le ultime 3 edizioni, cioè ospiteremo concerti nel Tankery Bar, che non è nient'altro che il caffè del Teatro Reggio, che verrà adibito per l'occasione con delle scenografie d'opera, e l'anno scorso abbiamo attinto da Traviata, quest'anno da Bohème, e lì avremo dall'1 fino alle 18, dalle 13 fino alle 18 dei concerti gratuiti con Federico Vacalepre, che intervisterà Renzo Rubino, Dente, Quartetto con l'Arco, Cristiano Godano, in una sorta di showcase, incontro con il pubblico. E poi dalle 19, sia di venerdì che di sabato, avremo i concerti al Ridotto, che è questa sala bellissima che è sopra al teatro, che per l'occasione la libereremo delle sedie, perché normalmente lì ci fanno le conferenze stampa delle stagioni liriche, eccetera, e lì avremo l'opportunità di ascoltare una data unica di Vasco Brondi dopo il suo viaggio in India, in solo, e poi Scott Matthews nel suo tour europeo, prima di arrivare ai concerti dei grandi Echo and the Bunnymen, che sono stati tra gli attori della New Wave internazionale, e di Apparat Live, che in questo momento forse tra gli esponenti più importanti della musica elettronica mondiale. E avremo poi questo party finale sia dopo il concerto di Apparat in questa sala Ipogea che fuori all'Auditorium Paganini, quindi ci sarà questo trasbordo dal Teatro Reggio fino a questa sala Ipogea per Marcellus Bittman in questo after show dopo il concerto di Apparat, e poi avremo il party finale sempre in sala Ipogea del Barezzi con G.P. Bieni e i Nouvelle Vague. Perfetto, direi un programma molto ricco che scopriremo questo weekend. Io ti ringrazio molto per averci raccontato la storia di Barezzi. Grazie a voi. E ci vediamo questo weekend. Grazie. Lascio che la gente pensi che io sia felice, che sia stupido, sia debole, che sia assente, perché di tutto questo non sono niente. E vestiti bene, che la gente vede, che la gente parla, che la gente che decide se siamo buoni o cattivi, se siamo vivi. Ma io sono vivo solo se mi tocchi, solo quando ti guardo negli occhi. Sono io quando mi sbaglio, quando rido, quando piango, quando mi sveglio, quando mi spoglio. Sono io anche se non voglio. Sono tutti voi, sono nessuno, valgo niente, sono l'unico, il peggiore, un innocente, l'assassino, il vincitore, l'acqua del mulino, io sono l'erba del vicino. Sono stato una canzone, una parola, quello debole di cuore, sono stato senza nome, una stella nel cielo che muore, al rallentatore. Sono nato in un campo di grano e sono morto dandovi la mano. Sono io quando mi sbaglio, quando rido, quando piango, quando mi sveglio, quando mi spoglio. Sono io anche se non voglio. E quanto è vero Dio, ho ballato sulle onde dell'oceano e so volare senza ali e respirare sotto al livello del mare. Ma uno scherzo è bello quando viene bene, mi bastasse essere vivo col mio nome buffo addosso, una manciata di monete e una donna sotto braccio.